Stiamo partendo. Massimo, ma fammi due chiacchiere. Siamo Giorgino, dentro. Ma ti sei impazzito? Così a tradimento? Sì, giusto così. Giorgino ci salva la giornata. Grande. Quando pensavi meglio del capo Ethernet. L'amaro Montenegro non sarebbe bastato, invece. Io so, finite fa scaletta veramente. Arriva Giorgino e si va in onda. Sì. E bentornati su Radio Forte 100 Celle Avengers in questo meraviglioso 29 novembre. Già mi vedo cose davanti alla faccia che sto mi sistemando confondono. La scaletta che okay. Però è insistemabile. Con 6 minuti di ritardo? Ok, con i dovuti problemi tecnici che non avete vissuto ma che sono stati emozionanti. Certo. Riusciamo anche oggi a andare in onda addirittura a 2 settimane, se posso già sbrodolarmi. Ma infatti, dalla, ma chi se ne frega del applauso? Dalla precedente puntata, vai con l'applauso. Vero. Ah, quello vero. Io lo fa per una volta con le mani, però. Vero. Hai ragione, ne chiedo hai ben troppo. Donde. Comunque, appunto, con questo sbrodolio che saluto alla mia destra, alla console e anche allo streaming. Betta! Male. Non è in grado di farlo, ma buonasera, piccoli nerd. L'importanza di un cavo di rete. E alla mia destra, sempre alla console. E sinistra. Lo sapevo che sbagliavo. Io non ne so la destra e la sinistra. Grazie. Ciao a tutti. Grazie Gabri per avermi corretto come fanno i veri giornalisti faziosi e anche un po' antipatici. Gabri Grubri. Buonasera. Salutiamo. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Incredibile. Grande ritorno in presenza dopo la malattia, dopo niente, non gli va mai di venire. Permesso per malattia. A seguire, ultima ma non meno importante, The Beautiful Mind, Franci. Ciao, piccole equazioni algebriche, ciao a tutti. Ovviamente facendo proprio in modo di non salutare come al solito Iron Man e Alexa, salutiamo chi ci ha permesso di andare anche oggi in onda, Giorgino. Grande. La presenza gradita all'ultimo momento fondamentale. E vabbè, che si attacca al mixer. E salutiamolo comunque Iron Man, se è possibile. Sì. Ancora abbiamo un nome che ricorda le imprese del nostro amico Iron Man. E abbiamo anche un'intelligenza artificiale che ci aiuta. Ciao Alexa. Che si chiama Alexa, la salutiamo. Sì. Madonna, che tristezza. No. L'ultimo momento è stato. No, si sono staccati tutti i bigliettini intanto. Sì. Che ci ricordavano cosa i nostri device volevano. Capito? Si stanno intendere. La magia dell'effetto audio, che la gente non sa certe cose, ma vabbè, anche è bello condividerle. E quindi. Grazie. La magia è pure che uno viene quasi in pigiama, diciamolo. Parlo per me. È vero. Comunque, in questa seconda puntata, la chiamo seconda perché appunto abbiamo fatto una piccola pausa, ma poi a un certo punto abbiamo deciso di ritornare sulla cresta dell'onda e quindi diciamo che pur non avendo un tema, poi a un certo punto abbiamo deciso di averlo perché presi dalla cronaca e sconvolti dai fatti di cronaca, c'è qualcuno che alza le mani, attenzione, problemi tecnici che ancora Giorgino, ancora sulla cresta dell'onda che Giorgino risolve. Giorgino anche, says qui, the day. Anche qui non potete vedere, quindi non potete gustare comunque gli interventi felini. Infatti io sostituirei Alexia con Alexia. E anche io la sostituirei con Giorgino. Chiedo scusa. No, dimmi come posso fare. Imperdonabile errore. Comunque dicevo, questa puntata che consideriamo la seconda della nuova stagione, cioè quando appunto abbiamo promesso a noi stessi che avremmo ricominciato ad andare in onda con una certa costanzia. Costanzia che c'ho a dirvelo. Sono 2 settimane e quindi in questa atmosfera natalizia risata. Io ho pensato che ridere. Sì Alexa, grazie, mi gratifichi le battute e con la tua risata contagiosa. Dicevo, ho pensato a un pezzo che appunto riguarda chi affronta una seconda impresa dopo un successone della prima. Se posso dire, io sì. Non canterei Vittoria troppo presto perché mi arrivano le vacanze di Natale e sappiamo tutti che... Cioè, ma era proprio per questo che era un'impresa. E infatti, comunque... No, prego, grazie per averci... Scusa. raccontato la realtà, ma noi andiamo di caparezza e poi ci pensiamo. Il secondo, secondo me. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vaschi, pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là. Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Remixa. Il secondo album è sempre più difficile. Ah. Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, quando è passato appena un quarto d'ora di divertimento e già sono stanco. E già non so. Grandi ma remix prima, dalla regia. Ma prima di non cominciare sei con, più la la nostra, tigre di una volta. Con la nostra matriosca di rubriche, pensavo, ma volemo parlare di noi, di chi siamo, di chi non siamo, di dove, cioè di chi siamo nel senso dei contatti, volevo dire. Dove andiamo? Cioè, quella parte consueta di. Oh, capito? Volevo restituire un pochino ai professionisti. i compiti. Calla, niente, mi stai. Sta cercando no, che non no, se la ricorda no, a memoria. Io ho tutto in mente, ma lascia perdere. Allora, potete ascoltarci in diretta qui dove ci state ascoltando sul canale Radio Forte del sito web fortebrenestino.net. Applauso. Prende piano e legge, vai. In diretta video su Jizzy, ma vi ricordate Jizzy? L'ha detto, applauso. Vabbè, Jizzy. Sì, l'abbiamo un po' abbandonato, questa è la verità. Ma se vi connettete, comunque faremo in modo di farvi vedere qualcosa in video in questo momento. Penso stiamo di no, consumando pizzette, mandarini, beviamo tè, ci rilassiamo. Ecco, quindi se volete ascoltare, a vedere oltre che ascoltare, andate sulla pagina di Jizzy. Ma soprattutto, perché tipo, mi mandi? Stai buono, non distrarre mamma, sta facendo un servizio pubblico, prego. E scrivete sul canale Telegram dedicato alla nostra trasmissione, che potete trovare su http://100GLAvengers. E qui ci stava l'applauso, scusa. Dove eravamo? È un canale Telegram, quindi quella roba che ho stropicciato all'inizio era solo per dire cercate un canale Telegram che si chiama appunto 100GLAvengers. Bene. Quanti ce ne saranno? Ci siamo solo noi. Attendibile, puntuale, complimenti. Dove eravamo rimasti? Bene. Eravamo rimasti al grande ritorno di una rubrica che poi, tra l'altro, parla dei grandi ritorni, quindi, no? Non vi piace questa matriosca di matriosca? Vabbè, questa insomma. Tautologia. Sì. No, io l'avevo immaginato, sì. Mi fa piacere che comunque si ascolti questa sigla, che era tanto che, perché come sapete a me piacciono le sigle di quello che facciamo, poi il contenuto è anche secondario, ma l'importante è presentarsi bene. E quindi Rise and Fall, la rubrica che parla delle reunion e dei divorzi ovviamente musicali, ha una sigla. La nostra relazione è terminata, insieme a te non ci sto più. Lasciamoci. Improvvisamente stiamo di nuovo insieme. Siamo insieme di nuovo. Che bellezza. La nostra bella valle. Lo fatto. Lo fatto. Ricominciamo. Siamo amici. Siamo sotto sotto la cenere. Ci aspettavo ancora. Ma che succede? La inseparabili. E mentre stanno cercando di sabotare la trasmissione, la professionista Gabri Gruppi è una di quelle che quando arriva comincia a lamentarsi della cuffia, chiama i tecnici, tutti le vanno intorno, trucco e parrucco. Ma perché lei fa gli squat? Prende le due ore di trasmissione come pretesto, esatto, per fargli squat. Esatto. Twister, ve lo ricordate? Twister? Nonostante tutto questo, io colgo l'occasione in questa rubrica sciamannata che parla delle reunion, per parlare di una reunion che non è musicale, ovviamente, anche se sto utilizzando il tema musicale che ci ha accompagnato praticamente nella nostra esistenza radiofonica lo è. E anche non radiofonica, e che è quindi la reunion della serie Scrubs. Applauso. E su questo alzo. Che cose. Allora, potrei stare una vita a dire quanto, insomma, questo stranamente questo telefilm medico, diciamo, abbia avuto successo nella mia vita e non solo nella mia, nel senso che magari è un argomento particolare, quindi non saprei, cioè sì, insomma, potrei attaccare la pippa sul perché ci sia piaciuto tanto, ma a me quello che interessa è sentire gente come la potente Virginia, che almeno ha visto il teaser di questa cosa, perché io l'ho solo saputo. Vuoi un commentino sul teaser della reunion? Puoi commentare. No, non mi ha lasciato una sensazione di amaro in bocca, devo dire. Mi sa che ci sono aspettative carine, basta che non si allungano troppo col brodo, perché ovviamente poi lo sappiamo che diciamo, è una reunion, non è una nuova serie, io spero, cioè una nuova cosa. Quindi niente, no, mi ha lasciato bene, mi ha lasciato il sorrisino, sono contenta, sono belli. quasi. E poi c'è Cox. Dicevamo un po' invecchiati. Ma è giusto, infatti, è un po' è il rischio e anche un po', diciamo, il meccanismo che piace di questo tipo di reunion che sono avvenute, che infatti ci hanno interessato in maniera, diciamo, duplice, nel senso che ne ho portata un'altra perché ho detto vabbè, mo già stai a fare una cosa non musicale, mettiamo un'altra cosa che musicalmente comunque tutti riconosciamo. Allora, puoi andare sul triste. Questo è perché mi manca un po' Viola. Vorrei dire tra l'altro che non l'abbiamo salutata. Salutiamo la professoressa maestra Viola, che ci sta Viola sicuramente sentendo, che curava e cura anche la posta del cuore e quindi, diciamo, aveva anche questo brano nella sua sigla, pseudo sigla. Comunque questo è il gancio per dire che oltre a vedere come si sono invecchiati JD, Turk, Carla, eccetera, Turk Stanfiore, abbiamo l'occasione, per chi ne aveva bisogno ovviamente, di sapere come stanno Joy e Pesi. Ah sì? Già, ma perché, lo vogliamo sapere? Ma non lo so, in realtà mi sento un po' a disagio, però ormai ho preso questa via, quindi è andata così. Potevamo inserire anche questo nella rubrica IM. Effettivamente poteva essere una cosa che importa a molti, importa a molti. Vabbè, ma questa importa leggermente a un po' più di gente che non la storia del mio furgone, che comunque potete sentire se volete, sì. Perché prima ne parlavamo. Invece appunto parliamo di Non ce la faccio, troppi ricordi, E infatti parliamo di Happy Hours, film fiction, no, trilogia tipo come si chiama? Twilight, per esempio. Tipo quello. Oh. Una roba pesantone. Solo Joy e Pesi. Sì. Quindi non si chiamano Joy e Pesi. Quindi in realtà hanno fatto così, diciamo, leva sul fatto che, insomma, no, che avevano un certo successo insieme, a prescindere. Certo. Però fanno un'altra roba dove ovviamente stanno insieme. Sì, prodotta da Katie Holmes, tra l'altro. Prodotta da lei, sì. Katie Holmes. E niente, vabbè, direi che anche su questo non saprei dire altro se non che non sto nella pelle. Certo, non vediamo tutti l'ora di rivederla. Sapete voi, vedete tutti, è inutile. No, infatti, la cosa un po' sconvolgente, io ho visto qualche immagine rubata così, hanno fatto, chiaramente le hanno già diffuse, no, le immagini per fare gola a tutti i nostalgici come noi di Dawson Creek, e le scene sono, cioè le mosse, ecco. Pesi che abbraccia Joy, Joy che guarda Pesi, sono identiche a quelle di Dawson Creek. Chiaramente, sì, insomma, non, diciamo, è un caso. Che non è che ci fossero grandi prove attoriali, no, nella serie, quindi secondo me sono proprio un po' personaggi loro. Sanno fare solo quello, diciamolo. Sanno fare quello e lo fanno bene, lo rifaranno. Lui però, vabbè. E gli vogliamo bene per questo. Bene, quindi Posso dire prego. Un'ultima cosa, perché del nerd ha bisogno di essere preciso. La reunion di Scrubs è il 25 febbraio. Brava, un po' di precisione. Anche perché Happy Hours invece io non so neanche se è già uscito o non deve uscire. No, era un rumor. No, credo che se fosse uscito ce ne saremmo accorti. La stanno girando, però escono le immagini del set. Esatto, da quello che ho visto le io. Le immagini del set. Quindi non è proprio uscito per niente. Molto bene, bene. Ma tu hai fatto l'informazione bene a Radio Forte 100. C'è l'Avengers. Chiudiamo questa parentesi imbarazzante con un omaggio che ho voluto fare al tema che ci eravamo non dati, e cioè che ci è capitato, diciamo, sul groppone, perché appunto sono andate via un paio di figure musicali, diciamo, importanti per noi, per simpatia, per quello che vi pare. Quindi avevamo lanciato una specie di tema dei gemelli che io non ho raccolto, però ho voluto appunto omaggiare, nonostante ciò, la situazione con questo. Piccolina, c'è poco tempo per ballare e per cantare. Se il giorno è lungo da passare, la notte vola. Ma Radio Forte 100 Celle Avengers, quando avevo il dubbio se i morti da evocare fossero due o tre, e poi in realtà qualcuno mi suggerisce che sono quattro in realtà, perché ricordiamo, oltre alle gemelle Kessler e a Ornella Vanoni, che abbiamo mescolato con Creanza, e anche il maestro Vessicchio, che se n'è andato nella meravigliosa due settimane che separa una puntata dall'altra. Noi con questa gittata lunga abbracciamo un sacco di morti, cerchiamo di non andare in onda troppo spesso, sto punto. Portiamo fortuna. E comunque è esattamente alla persona che mi ha suggerito appunto la correzione che io passo la parola, cioè Virgi. Allora, buonasera, oggi riprenderemo in mano una rubrica che sono secoli, vabbè, un po' come tutte quante che non ascoltiamo, che sarà Video Dance on the Radio, ovvero la rubrica in cui potrete vedere la musica alla radio. Oh. Sigla! Battement de gage. Bravo. Ma Virgi, che hai? Ti vedo giù. Ma come? Io avevo pronte le coreografie, i costumi, trucco, parrucco. E chi le vede mo ste cose? Ah. Senti io. Cos'è? Il musical? Senza la danza. Capito? Ok, Virgi. Oh, che bello ascoltare questo capito, sentendo il rimando e la citazione ai Blues Brothers che ho visto ieri. Che soddisfazione. Io per la prima volta, Virgi? No. Ah, okay. No, per la centesima, ma per la prima volta con i sottotitoli, per la prima volta in versione estesa. Comunque, a parte questo, sempre di musical si parla, anche se non troppo ballati. Oggi alziamo il sipario su due icone che hanno fatto la storia della TV italiana, ma anche internazionale. Prendiamo, diciamo, il tema di questa puntata dalla base, ovvero il motivo per cui è stato sviluppato, ovvero la dipartita sfortunata delle gemelle Kessler, Alice and Ellen Kessler. And non so perché mi è uscito. Dunque, und. Und. Dunque, da maestra di danza, non posso non porre l'attenzione su quello che c'era dietro quei body luccicanti, ovvero tantissima, tantissima sbarra. Infatti, quello che vorrei farvi capire oggi non è tanto la storia che hanno vissuto le gemelle Kessler, ma l'importanza che hanno avuto nel mondo dello spettacolo con la loro danza soprattutto. Infatti, entrambe iniziano la loro carriera studiando danza classica all'Opera di Lipsia. Non poteva essere altrimenti per la perfezione che loro portavano sul palco. Il loro stile, infatti, era sincronia ipnotica, così identiche, con i movimenti così precisi, che le ribattezzarono addirittura quattro gambe e una sola testa. E in sala, che si parli di gruppi musicali o coreografici, noi sogniamo sempre più o meno questa perfezione geometrica, o per noi, intendo io. A 16 anni le gemelle Kessler fuggono e finiscono al Lido di Parigi con le Blue Bell Girls, ovvero la crema della rivista parigina. Passare dal rigore classico del cancan è un vero giro di svolta nella loro vita e le portò al loro stile inconfondibile. La danza rivoluzionaria delle gemelle Kessler, infatti, non era soltanto la tecnica, era quello che si poteva percepire, ovvero la loro ironia. Erano considerate altissime, con gambe di ben 105 cm l'una, e quindi tutto quanto girava intorno a queste figure statuarie che ballavano e cantavano nei palchi, insomma, nelle scene di tutte le trasmissioni degli anni 60 dell'epoca. Super Pudica provò a censurazione la sincronicità, che evidentemente non le abbandonò mai. Infatti ci hanno lasciati incredibilmente insieme. Se vogliamo vederla in modo romantico, hanno messo in scena l'ultima perfetta coreografia di tutto e programmato. Una scelta intima e coraggiosa, che riflette la loro coerenza assoluta. In questo, diciamo che possiamo avere tutti quanti considerazioni personali. Diciamo che non entrerò nel merito di quello che effettivamente è successo. L'unica cosa che noi sappiamo è che si sono ritrovate insieme a finire la loro vita insieme contemporaneamente grazie al suicidio assistito. Come libera scelta. Esatto, questo, come libera scelta. Possiamo dirlo, penso. Eh sì, senza, sì, sì. E quindi, considerazioni personali a parte, la loro unione simbiotica infatti non si sarebbe di certo mai spezzata. Le gemelle Kessler sono state la dimostrazione che la disciplina della danza e la forza di una scelta possono trasformare la vita in un'opera d'arte dall'inizio alla fine. E con questa lezione di disciplina estrema, possiamo dire anche prego maestro. La notte piccola per noi, troppo piccolina, c'è poco tempo per ballare e per cantare. Se il giorno è lungo da passare, la notte vola, la notte piccola per noi, troppo piccolina, ma per chi canta come noi, insieme a noi, per mille ore durerà. La notte piccola per noi, troppo piccolina, ma cosa stiamo ad aspettare? Vieni a ballare, arriva l'ora prima o poi che ci innamora. Celle Avenger è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Radio Forte, 100 Celle Avengers, di nuovo in questa dimensione intima, questa volta ancora più sperimentale, perché non solo qui accanto a me c'è la faziosissima giornalista Gabri Grubri, ma addirittura per la prima volta in diretta differita nel passato e nel presente abbiamo niente proprio di meno che Angelo. Oh, gnogno! È quello vero. Dici bene, abbiamo qui Angelo, anche detto Gnogno. Siamo in procinto di lanciare una nuova, nuovissima puntata di Artifici, che non sentivamo da un po', e quindi con enorme piacere, e che ti chiedo di mandare la sigla di Artifici. Vai! Grazie Angelo. Non conoscendo affatto la storia dell'arte. Grazie Angelo. Sempre gradevole, sempre importante. Grazie Angelo. Ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. Buonasera a tutti, buon pomeriggio anzi. Sono a mia volta felicissimo di essere qui insieme a mia figlia Daniele, a Pippetto, e parlare con voi di un argomento che a me sta molto a cuore e peraltro è oggetto di un lavoro che da 20 anni circa porto in giro scuole, teatri, luoghi vari, e che ha come tematica il raffronto tra tre artisti che sono, a mio parere, accomunati da tantissime cose: il pittore Caravaggio, il cantautore Fabrizio De André, l'intellettuale, poeta, regista e tante altre cose, Pierpaolo Pasolini. Cosa hanno in comune questi tre? Nel 2018, per qualcuno che ricorderà, questo lavoro è stato presentato anche lì a Teatro Forte, e sono sempre disponibile a ripeterlo quando mi chiameranno. Il lavoro cosa porta, di che cosa tratta? È una sorta di tesi di laurea, come si facevano una volta. Una volta il candidato presentava alla fine dei suoi studi universitari, sulla base di quello che aveva studiato, elaborava una sua tesi, delle sue considerazioni originali, e le discuteva con un controrelatore, rispondendo a domande, eccetera. Se superava l'esame veniva dichiarato dottore, laureato, eccetera. Se non superava doveva ripetere l'esperienza. Io una laurea l'ho già presa e quindi mi limito a parlarvi di questo mio lavoro, sperando che vi piaccia e che comunque sia gradita. Partiamo da alcune loro opere, così ecco, può essere più semplice. Di Caravaggio ne parliamo di una che è molto famosa, La morte della Vergine. Più che morte è la dormizione della Vergine, perché la Vergine non è morta, si è addormentata e poi si è trasmigrata in paradiso dal figlio. Quindi Morte della Vergine, che è al Louvre. Chi se la ricorda, altrimenti su Google cliccate e uscirà sicuramente. Presenta questa donna morta stesa su un tavolaccio, con una veste rossa, i piedi nudi, i capelli scarmigliati, il ventre gonfio, tutto sembra tranne che la Madonna morta. E peraltro pare che Caravaggio abbia preso come modello una sua amica, una prostituta annegata nel Tevere, dal che il ventre gonfio, perché pare che chi muore annegato, a chi muore annegato gli si gonfi il ventre. Lo scandalo fu enorme all'epoca, tant'è che la tela commissionata dai frati di Santa Maria in Trastevere fu rifiutata, fu comprata da Rubens, insomma ebbe una serie di vicissitudini. Ma focalizziamoci un po' sul soggetto rappresentato: la morte di Maria, rappresentata come la morte di una prostituta, con tutte le, anzi senza nessuna di quegli elementi che di solito venivano utilizzati per rappresentare la Dormitio Virginis. Intorno a lei ci sono gli apostoli vestiti come potevano essere vestiti all'epoca di Caravaggio, non all'epoca di Maria, dei pescatori, dei contadini, quindi in maniera molto dimessa, che piangono, si disperano perché è morta una persona per loro importante. E questa è l'opera di Caravaggio. Per quanto riguarda De André, possiamo pensare alla Città Vecchia, che descrive i sobborghi di Genova pieni di prostitute, ladri, nani che vendono le madri, che insomma fanno l'ira di Dio, o a Una storia sbagliata, che è stata composta proprio in occasione dell'assassinio di Pierpaolo Pasolini. E per quanto riguarda Pasolini, pensiamo ai suoi film, intanto al suo libro, il primo romanzo che fu pubblicato, Ragazzi di vita, e poi i suoi film, Accattone, Mamma Roma, La ricotta, film interpretati prevalentemente da suoi amici o comunque da persone che venivano dalle borgate romane, pochi gli attori professionisti. Allora, da queste tre opere che ho citato ci fanno già capire quali sono le tematiche comuni ai tre artisti, e c'è quindi intanto la scelta di una cattiva strada. E dico che De André, un'altra delle poesie poi musicate di De André, ha come titolo proprio La cattiva strada. L'altra caratteristica è il conflitto che tutti e tre avevano con la morale del loro tempo, e altra caratteristica è un conflitto col potere, qualunque esso fosse, potere politico o potere religioso. Ma tutti e tre a loro volta avevano un ulteriore dato comune: dato dalla ricerca del sacro attraverso la sconsacrazione dei simboli tradizionali e la proposta di riconsacrazione dell'uomo. Tutto questo per la realizzazione di alcuni tra i migliori, forse i principali, archetipi evangelici. Ora, se vi sentite parlare di Vangelo, non pensiate che io sia un diacono, un chierico o altro. Sono fortemente laico da 60 anni circa. E, ciononostante, sono riuscito proprio alla fine, nel corso di questo mio interessarmi alla materia, a dividere Gesù dal Cristo. Di Gesù sappiamo ben poco. Per 30 anni è rimasto sconosciuto, della sua vita si sa poco, probabilmente è vissuto in un bosco con Maria, sposato, con figli, non lo sappiamo, ma sarà stato così, perché ha elaborato le sue teorie e poi ha sentito la vocazione di andare allo scoperto a raccontare le sue cose agli altri. Quindi Gesù, da una parte, come personaggio che può essere storico o meno storico, io lo immagino come Omero, cioè noi attribuiamo ad Omero l'Iliade e l'Odissea, ma sappiamo bene che non è affatto certo. La stessa figura di Omero è leggendaria, ciò non toglie che lui e le opere a lui attribuite siano un fondamento della cultura umana, sì, dell'Occidente prevalentemente. La stessa cosa può essere per il Vangelo, indipendentemente da chi sia stato Gesù, se sia esistito o meno, ma quello che viene a lui attribuito ha un'importanza notevole. Quindi Gesù, Cristo poi è un'altra cosa, Cristo è la perversione ideologica di tutto ciò che è scritto nei Vangeli. Ma non parliamo di Cristo, parliamo di Gesù come probabile autore dei Vangeli. In questi Vangeli ci sono dei principi bellissimi che, se ci fosse stato consentito di leggere i Vangeli così come abbiamo letto l'Odissea, l'Iliade, Shakespeare e tante altre opere, ne avremmo tratto sicuramente vantaggi maggiori rispetto a quelli che non abbiamo tratto, essendo soggetti passivi di una dottrina, di un catechismo che poco ha dato di buono. Dunque, andiamo ai principi ai quali mi riferisco. Uno è espresso nel Vangelo di Giovanni, ed è Giovanni 1,14, il versetto, dove si legge: «E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in noi». Su questo versetto io, insomma, mi ci sono un po' dedicato, sono andato a vedere, perché se aprite il Vangelo e leggete, questo versetto alla fine è tradotto non abitare in noi, ma abitare in mezzo a noi. E c'è una bella differenza se lo Spirito, il Verbo che si fa carne, abita in mezzo a noi o se abita in noi. Poiché, come si dice in Calabria, mi ci abbaca, cioè sono molto curioso, questa è la traduzione, poi ci sarebbe quella volgare, ma evitiamo. Quindi, perché sono molto curioso, sono andato a vedere la traduzione latina, e in latino si legge: et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. In nobis vuol dire in noi. Non pago di questo, sono andato a vedere anche il testo greco. Il testo greco dice, non vi leggo tutto il verso, solo la fine, kai, che vuol dire è kai eschenosen, ha abitato en emin, è lo stesso di in nobis, è lo stesso di in noi. Ora, se il testo greco, il testo latino dicono in noi, non vedo perché in italiano si debba dire in mezzo a noi, ma ognuno traduce come meglio crede. L'altro, quindi, abbiamo questo spirito, questo verbo che si fa carne ed abita in noi. L'altro precetto evangelico molto bello si trae dalle beatitudini, e come riferimento io ho Matteo 1,12. Beati i poveri, quelli che piangono, i miti, i sofferenti, gli ultimi. Questi due precetti evangelici sembra che siano stati perfettamente incarnati sia da Caravaggio sia da Pasolini e sia da De André. Allora, intanto Caravaggio l'abbiamo già accennato prima, ha dato alla Madonna i visi delle prostitute sue amiche, ai personaggi sacri che ha rappresentato, dava i volti di coloro che incontrava nelle bettole, nei bordelli, nelle carceri, nelle galere, e li ha eternati in una maniera che diversamente nessuno avrebbe potuto avere. La stessa cosa ha fatto Pasolini, e ha fatto emergere da un analogo anonimato altri miserabili, quali Ninetto Davoli, i fratelli Cicci, Franco e Sergio, e tutti quegli altri personaggi che lui chiamava per interpretare i suoi film e partecipare alle riprese. La stessa cosa De André. A proposito di De André, ognuno di noi conosce la canzone di Marinella. Ora, Marinella è stata ispirata da un fatto di cronaca. Lui aveva letto che a Milano una tale Maria Boccuzzi, peraltro di origini calabresi, trasferitasi a Milano, era stata, purtroppo caduta abbastanza presto nel giro della prostituzione, era stata uccisa con un colpo di pistola. E a proposito di lei, De André dice: «Non potendo fare niente per restituirle la vita, ho cercato di cambiarle la morte». E infatti Marinella è una storia di morte, ma una storia edificante, decisamente edulcorata. C'è l'incontro fra questa giovane e un principe. Quindi De André ha eternato la figura di Maria Boccuzzi in una favola. Allora, sono tre artisti che si sono ribellati alle regole sociali, morali, religiose, che escludono qualcosa che invece è importantissima, cioè la misericordia. Misericordia è una parola poco usata e purtroppo è stata un po'... se la sono presa i preti, insomma, ecco, e quindi ce l'hanno sottratta. E invece bisogna riappropriarsi di questa parola, come di tante altre parole, e usarle per esprimere ciò che ci accade intorno a noi. La misericordia consiste nel prendere su di sé, nel proprio cuore, corde, la miseria degli altri e la propria. E sia Caravaggio, sia Pasolini, sia De André questo hanno fatto, hanno condiviso, hanno assunto su di sé la miseria degli ultimi, dei diseredati, hanno cercato di dare loro uno scopo, una gratificazione, un sorriso, e ci sono riusciti. Per cui quando tornerete a vedere tele di Caravaggio o ad ascoltare musiche di De André o a leggere o a vedere opere di Pasolini, guardate e ascoltate ripensando un po' a quello che hanno fatto gli altri due e avrete delle belle sorprese. Grazie e buon proseguimento. We'll be right back. Radio Forte 100 Celle Avengers, quando ti sentivi solo di sabato al Forte, pensavi non ci fosse nessuno e ti sbuca fuori invece la situazione per cui addirittura le giornaliste Virgi e Gabri Grubi si sono alzate e per questo si sono generati anche dei problemi tecnici perché non siamo abituati a accedere alla poltrona. Si è quasi rotto tutto. Ma soprattutto lo facciamo nel momento in cui, incredibile, si presenta qualcuno che comunque utilizza le antenne, cioè qualcuno della vera radiofonia. E questo ci fa sentire subito a disagio. No, comunque salutiamo i ragazzi di Radio Blackout che ci sono venuti a salutare. Applausone finto. Ciao. Ciao. Grazie, grazie a tutti e tutte. Grazie. E vabbè, presentatevi, per cioè abbiamo due degli esponenti tre. In tre. Siamo moltissimi in questo soppalco quest'oggi, incredibile. È un soppalco che resiste. Dai, sì, tre. Allora, vado io, vai tu. Parti. Allora, piacere a tutti e tutte, sono Yashin di Radio Blackout, trasmetto da 23 anni sulle libere frequenze dei 105.250 delle modulazioni frequenze di Torino. Ho una trasmissione il venerdì notte che si chiama Reset Club e sono qua al Forte Prenestino perché stasera c'è una serata benefit proprio di Radio Blackout insieme a tanti amici e amiche che metteranno tantissima musica, quindi l'invito è quello di venire. Eh sì, infatti siamo in realtà tre di una bella banda, una bella banda che è venuta qua giù in trasferta per questo momento benefit e anche per scoprire delle altre radio indipendenti e libere che sono in giro per l'Italia e aiutano l'etere non solo ad essere meno inquinato, certo, e invece di riempirsi di cose interessanti e libere. E poi oltretutto mi fa veramente piacere essere qua a Radio Forte perché ho avuto una piccola collaborazione con voi qualche annetto fa e finalmente sono nei vostri studios belli caldi, sono bellissimi. E poi ringrazio anche Giorgino che ci ha fatto venire qua sopra a salutarvi e che garantisce lo svolgimento tecnico della serata oltretutto, quindi sì, siamo nelle sue mani visto che oggi siamo andati in la colonna, grazie a lui che con un colpo di reni ci ha aggiustato il server qui. Confidiamo anche in questa sera le prestazioni di Giorgino sulla fascia per l'iniziativa a sostegno di Radio Blackout. Ho solo collegato un cavo che era rimasto, ecco, io questo volevo, l'umiltà di Giorgi. La giocata semplice che ti fa veramente il gol. Sì, esatto, un piatto d'argento, ma Giorgi è il nostro ospite d'onore, ogni tanto ci viene a trovare, quindi lo dobbiamo mettere in mezzo per forza. E quindi ma c'è un altro ragazzo che esatto. Io non voglio aggiungere molto, sono Valle, anch'io trasmetto su Radio Blackout da un annetto, non ho l'esperienza dei miei colleghi qua, ma allora visto che già mi sembra che abbiano più o meno detto tutto, rinnovo l'invito a passare stasera a fare due salti. Dai, e ricordando che per imitarvi, cioè voi come insomma le altre radio che hanno l'antenna, che insomma che modulano sulle frequenze dell'etere, Giorgino sempre ci ha fatto prendere un palo che sta qua fuori, che avete visto lungo, che pensavamo di montare, ma poi abbiamo pensato ai fulmini, ci sono gli abitanti, cioè un po' di il lungo arnese di Giorgino. No, ecco, lo sapevo che finiva così. No, volevo dire cioè, che il tentativo appunto fra AM e FM sta ancora sdraiato lì nel tunnel del Forte, però lo ergeremo sicuramente, anche perché altrimenti tutto questo ben di Dio di conversazione la gente lo trova soltanto nel simpatico podcast consueto, ma voglio dire, solcare anche solo, ogni tanto l'abbiamo fatto, di solcare un po' l'etere per circa un chilometro quadrato intorno al Forte, però l'emozione può essere anche più grande, ecco. Questo vabbè, per l'amore dello studio delle antenne che abbiamo fatto a Radio Forte tempo fa che non abbiamo più affrontato. E niente, vabbè, anche per dare un gancio, adesso scusate perché è dietro di voi, ma al nostro matematico, che a questo punto doveva darci un po' la dimensione matematica della vita, che cioè, quindi porta anche alla necessità di prendere appunti. Io lo dico, è una cosa, una parte che si segue un po' più così. Ah, io pensavo che era il progettista dell'antenna. È anche potenzialmente quella mente che ci servirebbe, il calcolo matematico per tirare sul palo se stiamo sbagliando. Ah, esatto. Io lavoro con carta e penna, no? Quindi quelli sono gli ingegneri o i fisici, no? Io... Va bene, allora buona trasmissione, buona continuazione, grazie mille. Grazie, e niente, a voi. Grazie a voi. Grazie a voi, ragazzi. Ci vediamo stanotte. E questo raro momento di reale radio, invece di essere quello che siamo. Torniamo a essere quello che siamo, però. Quindi si risiedono in Bisogna proseguire. Bisogna anche proseguire nella vita, e c'è la matematica da studiare, quindi cioè, occhio che è un po'. Vabbè, oggi in realtà quell'orario che poi la gente si annebbia, no? Invece dobbiamo stare lucidi. Allora, oggi, sul pezzo. Come diceva gli altri, in realtà oggi spiego, quindi nessuna interrogazione. Maestro, posso andare al bagno? Perché? Perché, diciamo, approfittando della trascorsa giornata della lotta alla violenza contro le donne e, diciamo, omaggiando anche la scomparsa delle gemelle Gessler e di Ornella Vanoni, ne ho approfittato per oggi vi parlerò appunto della storia di una coppia di matematiche che, insomma, che sono state veramente molto, molto importanti, quindi ve ne parlerò tra poco. Sigla. Le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Non avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io. L'ho trovato io. E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Ma mi sembra un po' fuori del programma. E poi magari non a tutti interessa. Sì, sì, interessa. Lo spieghi. Questa sarà un giorno la versione breve della sigla. Lascerò solo questa frase. Allora. Dunque, la prima matematica. Allora, innanzitutto faccio una premessa. Per fare questa puntata ho dovuto chiedere il contributo di persone che hanno dovuto pronunciarmi delle frasi in francese. Poi dopo scoprirete e manderemo questi contributi. Perché la seconda matematica di cui parleremo era una francese, quindi mi è servito qualche piccolo aiutino. C'è anche qualcuno che ti ha spiegato la pronuncia di numeri. Ok, me ne vado, scusate. Numero. Non lo riesco a dire la doppia, niente, ce la faccio. Allora, la prima matematica di cui vi parlo è italianissima, si chiama Maria Gaetana Agnesi, nata nel 1718, fu una delle figure più straordinarie del Settecento europeo. Pensate un po' che era matematica, filosofa, teologa e filantropa, ed è considerata tra le più grandi matematiche di tutti i tempi. Primogenita di una famiglia agiata e colta, mostrò fin da bambina un'intelligenza eccezionale e una straordinaria predisposizione per le lingue, tanto da meritarsi il soprannome di Oracolo Sette Lingue. Pensate, questa conosceva sette idiomi, quindi. Cresciuta in un ambiente frequentato da intellettuali italiani ed europei, passò dagli studi linguistici alla filosofia e poi infine alla matematica, pubblicando nel 1738 le Proposiziones Filosofiche, una raccolta di 191 tesi che affrontavano temi di logica, cosmologia e metafisica. In questi scritti sostenne con forza il diritto delle donne all'istruzione, che era per l'epoca una posizione molto innovativa. E, pur desiderando la vita monastica, rimase in famiglia per assistere il padre e si dedicò agli studi scientifici e religiosi. Dal 1740 collaborò con il matematico Ramiro Rampinelli e, incoraggiato da Jacopo Riccati, compose il suo capolavoro, cioè Istruzioni analitiche ad uso della gioventù italiana, 1748, dedicato a Maria Teresa d'Austria. L'opera, in due volumi, è considerata la migliore introduzione ai lavori di Eulero e tratta sia l'analisi delle quantità finite sia l'analisi infinitesimale. tradotta in francese e inglese, ricevette elogi da tutta Europa. L'Accademia di Francia la definì la migliore mai apparsa nel genere, mentre Benedetto XIV e Maria Teresa le inviarono doni e riconoscimenti. In essa compare la celebre curva detta Versieria, che però per un errore di traduzione è nota nei paesi anglosassoni come Witch o Vagnesi, ma capì perché. Nel 1750 sostituì il padre nell'insegnamento all'Università di Bologna e ricevette l'offerta di una cattedra che rifiutò per ritirarsi dalla vita pubblica. E perché? Perché da quel momento in poi si dedicò interamente alla carità. Vendette i propri beni per assistere poveri e malati, trasformò la casa in rifugio per infermi e grazie alla donazione del principe Trivulzio nel 1771 contribuì alla fondazione del più albergo Trivulzio, di cui divenne direttrice nel 1783. Continuò a studiare teologia e a insegnare catechismo diventando punto di riferimento per questioni religiose. Visse i suoi ultimi anni al Trivulzio, dove morì nel 1799 di polmonite. La sua vita fu segnata da genialità e altruismo e le valse la fama internazionale e il riconoscimento come pioniera della matematica e dell'educazione femminile. La sua eredità scientifica e morale continua a essere ricordata come esempio di sapere unito alla solidarietà. E questa è stata la prima matematica. La seconda matematica è una francese, si chiama Marie-Sophie Germain. Spero di averlo pronunciato bene, perché questo me l'hanno suggerito anche benissimo. Questo. Meglio del Merovingio. Fu una delle figure più nata nel 1776, fu una delle figure più straordinarie della storia della matematica, nota per i suoi contributi alla teoria dei numeri e alla teoria questo sì che l'hai detto bene. Dei numeri e alla teoria dell'elasticità, ma anche per la tenacia con cui affrontò i pregiudizi che escludevano le donne dagli ambienti scientifici. Nata in una famiglia agiata e liberale, respirò fin da giovane lo spirito innovatore della rivoluzione francese. A soli 13 anni, leggendo nella biblioteca paterna la storia di Archimede, maturò la convinzione che la matematica fosse una disciplina così affascinante da meritare ogni sacrificio. Da quel momento iniziò a studiare di nascosto i testi di Newton ed Eulero, sfidando l'opposizione dei genitori che alla fine cedettero alla sua determinazione e finanziarono i suoi studi. Oh, e qui c'ho bisogno del primo aiuto del suonone, perché nel 1794, quando fu fondata... Prego, maestro... L'École Polytechnique. Ancora il prossimo? L'École Polytechnique. E l'ultimo? L'École Polytechnique. Uno sarà giusto. Uno sarà giusto, tutti e tre giusti, però poi... poi dopo vi rivelerò. Germain si trovò di fronte al divieto di accesso per le donne. Per superare questa barriera assunse l'identità maschile di Antoine Auguste Leblanc, uno studente che aveva abbandonato i corsi e ottenne le dispense per studiare da autodidatta. Le sue elaborazioni colpirono Joseph-Louis Lagrange, che divenne suo mentore e la incoraggiò a proseguire. Germain si dedicò alla teoria dei numeri e all'ultimo teorema di Fermat, individuando una classe di numeri primi che oggi porta il suo nome, numeri primi di Sophie Germain. Pensate un po'. Nel 1804 iniziò una corrispondenza con Carl Friedrich Gauss, inizialmente sotto pseudonimo. Quando nel 1806 le truppe napoleoniche invasero la Prussia, Germain si adoperò per proteggere Gauss, che la ringraziò con parole memorabili, lodando il suo talento e il coraggio di una donna capace di affrontare ostacoli infinitamente superiori a quelli degli uomini. Tuttavia, dopo il 1808, Gauss abbandonò la teoria dei numeri e il loro scambio si interruppe. Privata di questo sostegno, Germain si orientò verso la fisica matematica. Nel 1809 partecipò al corso dell'Accademia delle Scienze per spiegare le vibrazioni delle superfici elastiche, un problema pensato un po' posto da Napoleone stesso. Dopo due tentativi falliti, nel 1815 vinse il premio con la memoria sulle vibrazioni delle piastre elastiche, un lavoro che gettò le basi della moderna teoria dell'elasticità. Nonostante il successo, subì discriminazioni. La sua equazione fu attribuita a Lagrange e il suo lavoro ignorato da rivali come Poisson. La vittoria la consacrò come uno dei grandi matematici del tempo e le aprì le porte dell'Accademia delle Scienze, dove fu la prima donna ammessa alle sessioni, privilegio fino ad ora riservato solo alle mogli dei membri. Nonostante i meriti, non ottenne mai una laurea ufficiale. Nel 1830 l'Università di Gottinga decise di conferirle una laurea honoris causa su proposta di Gauss, ma Germain, pensate un po', poverina, morì di tumore nel 1831 prima di riceverla. Oh. Già. Oltre ai contributi matematici, scrisse saggi filosofici e storici, tra cui il postumo Prego maestro con il secondo contributo. Considération générale sur les sciences et les lettres. Considération générale sur les sciences et les lettres. Considération générale sur les sciences et les lettres. Ma sono tre accenti diversi. Allora, allora lo, spiegher- scusa, scusa. Lo, lo spiegherò alla fine. Poi, una è belga. Esatto, una è belga. dove è arrivato? Ok. Questo scritto è stato elogiato da Auguste Comte. La sua memoria è onorata con una scuola e una via a Parigi, un cratere su Venere, pensate un po', e la definizione dei numeri primi che portano il suo nome. Tuttavia, il suo nome non compare tra gli scienziati incisi sulla Tour Eiffel, segno delle difficoltà che dovette affrontare in vita. Marie-Sophie Germain rimane un simbolo di genialità e determinazione, capace di aprire la strada alle donne nella scienza e di lasciare un'eredità che ancora oggi ispira studiosi e appassionati. Non c'è applauso, non c'è. Non c'è l'applauso. Facciamo un applauso dal vivo. Applauso. Complimenti per tutte le pronunce impeccabili. Esatto. Però ci devi spiegare perché ne mandavi di tre. Allora, di queste, che cosa è successo? Dato che c'erano delle pronunce francesi abbastanza tostarelle, io a malapena so l'italiano, quindi era un po' difficile per me. Ho chiesto a tre persone di mandare il primo che faceva, perché mi sono dovuto sbrigare. E quindi l'ho chiesto alla nostra cara Julie, che come avete potuto riconoscere è belga, Julie. Quindi madrelingua, bravissima. L'altra è Sophie, anche lei ha studiato, insomma, laureata in lingue, quindi, quindi molto preparata. E l'altra è un mio amico che vive in Francia e quindi insomma molto preparato. Potete votare il vostro preferito nei commenti, scrivetelo nei commenti. Evviva! Votate Julie, per favore, se quanto mi piace sta cosa dei commenti. Che non abbiamo, però è molto bello. Bravi, li avremo. Bello, bravo. E niente, detto questo, vi lascio questa volta sì con un brano degli Halloween che andava. Abbiamo un problema. No, scherzo. No, abbiamo... un altro? Abbiamo un brano di Vasco Rossi al posto. No. E perché? Perché settimana scorsa c'è stato il concerto degli Halloween. Sono stato su a Milano e ragazzi miei. Più di 60 anni questi spaccano ancora. Due cantanti, tre chitarristi. Entusiasmo, attenzione. Grande, grande, uno spettacolo da paura. E questa è I Want Out. Halloween. Avevo una casetta piccolina. Go there! Radio Forte, 100 Celle Avengers, sempre in diretta dopo questo grande ritorno degli esageratoni. Grandi, quanti li amo, raga. Com'era? Due cantanti, tre chitarre. Due cioè, cantanti. L'ho sentiti. Che poi, giusto per chiudere, cioè loro hanno tre chitarre, ma effettivamente hanno suonato veramente tutte e tre le chitarre. Non tutte come, e questo lo dico con il cuore che mi duole perché sono il mio gruppo preferito. Non come gli Iron Maiden, che hanno pure loro tre chitarre, ma praticamente il terzo chitarrista nei pezzi fa tipo. Non fa nulla. Invece loro, cioè, proprio facevano le armonizzazioni. Ma per caso citi gli Iron Maiden perché lontanamente gli rassomigliano? Vabbè, sì, vabbè. Vabbè, raga. Cioè, sì. Forse Michelino Kisk. Michelino Kisk un po' Dickinson. Vabbè, sì. Però. Poi se è venuto prima l'uno o l'altro non lo sapremo mai perché. Che, oddio, credo. Forse non lo so, i crucchi poi potrebbero sempre dire che no, noi eravamo già arrivati alla bomba atomica prima di voi. Possiamo fare qui cose che neanche immagini. Sì, sì, probabilmente. Chissà come è andato a finire. Chi ha inventato il esatto, chi è stato iniziale il primo. Nel metal, ovviamente. Vabbè, affascinante. Tutto questo ci porta comunque a parlare di musica per un momento. Non vorrei abituarci, cioè, continuiamo sempre a andare a 360 gradi, come si suol dire. Però in questo momento si riapre un'altra volta una rubrica di cui amo la sigla, per cui cioè, in realtà dai, oggi ho portato tutte cose di cui mi mancava la sigla. mi manca anche che non la trovo, infatti. Ma questo non è che un classicone, questa, diciamo, di 100. Possiamo parlare Avengers. Sempre della storia del metal. Dovremmo trovare una sigla per quando non c'è la sigla. Forse l'ho trovata. Comunque si trattava della rubrica Aspettando Mogol, rubrica dedicata ai testi delle canzoni. Oggi non solo, oggi gemella di un'altra Vedi? Rubrica che verrà dopo di noi. Ma nuova. Intanto sigla. Dammi scendo tutto al bar, sembro tutto anche a. Ho speso due campa su una scala. Come parla? Ma che bella canzone. Le parole sono importanti. Potranno mai le mie parole. Parole, parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Faccia gira dal contrario, giro poi pantale o va. Come parla? Sole, cuore, amore. Parole. Una parola ancora. Solo che pensavo quanto è inutile farne. Così metto subito un sottofondo che vi metta a vostro agio. No. Perché mettervi fuori dalla zona di comfort. Conoscevo questa cover. Vero, neanche io. Pensa che non volevo metterla. ma comunque prendo così. Tutto come una sorpresa positiva o un segno ma che sì. Non dovevo farlo, non lo so. Sta di fatto che comunque il pezzo sì, era questo. Ok. E volevo rievocare un po' un caso passato, un caso di diciamo gemellaggio, un'altra volta sui gemelli, mamma mia, palla. E, con la rubrica Cigni di Balacà, della quale non metterò la sigla perché sarebbe ridondante, però mi piacerebbe. E, la prossima volta. Perché? Perché andavamo a analizzare sì i testi delle canzoni, ma andavamo e ci imbattevamo come appunto innocenti esploratori in dei casi di puro plagio. E in quel caso si trattava appunto di Tiziano Ferro che aveva scippato lo strumentale paro paro di questo pezzo qua che è Cristiano De André di qualche anno prima. E perché ce ne eravamo accorti? Perché c'era il riempitivo. Allora, cioè, l'argomento che noi trattavamo sempre da innocenti esploratori senza sapere in cosa ci saremmo imbattuti erano i riempitivi. Cioè quel momento in cui il testo dici ma perché c'è, invece di metterci una parola ci hai messo un ta ta ta nananna, eravamo pure arrivati a una classifica di gente che lo aveva fatto diciamo valutandoli in base a quanto era opportuno, quanto sembrava una finta, quanto sembrava che non c'avevi proprio ispirazione o fosse voluto, per esempio lì il Vince Mietta con du du du da da da di Tortolino sì. Amoroso, no? Certo. Che cioè gli vuoi togliere in senso, vuoi dire che non cioè vuol dire che non c'aveva idea Mietta, cioè non è quello il caso. Invece Tizianone sì, Tizianone si era scippato proprio tutta proprio lo strumentale senza alterare le battute di un accordo o l'altro, quindi lì c'è stava quello e il testo era, non ce l'avevano, ci hanno messo un tu tu tu da da. Quindi Che cosa succede? Che noi ci siamo sentiti a un certo punto un occhio di Sauron, un occhio esploratore che scova al di là del, appunto, l'analisi testuale dei pezzi, scova dei casi di plagio. Quindi quello che vi diciamo prima di farvi sentire gli stupidi esempi di oggi è: stiamo attenti, perché oggi potremmo stare scovando qualcosa che non sapevamo e domani abbiamo rovinato un Tananai, un Annalisa, insomma. Vi anticipo, comunque, sì, sembra un Dicevo, artisti di grosso calibro che comunque hanno praticamente usufruito di questo meccanismo perverso, che è questo. Sono pieni di idee, pieni. Allora, c'è questa serie neozelandese che non è male, eh? C'è roba. Poi è interessante questo telefilm coreano. Io dico interessante così a naso, perché in realtà è tutto in coreano, non si capisce un cazzo. E invece io il coreano l'ho scaricato e ho cominciato anche a tradurre. Guarda questa clip. Significa l'anello del conte. Capito? L'anello del conte. Guarda qua. Ho controllato nel vocabolario e significa pacchetto azionario. E l'ascolterei per una vita, Boris. Il punto era sottolineare come appunto ci sia ancora un po' il fattore distanza che permette il plagio a distanza, non se ne accorgono, magari gli rubo solo lo strumentale. Quindi noi vigiliamo intanto su questo. Proprio roba fresca fresca, eh? Questi sono i Rama e Elodie. Questo ta-ta-ta-ta-ta è sospetto, questo volevo dire. Anche perché... Si ripete, quindi è doppiamente sospetto. Dopodiché... Eccolo, Tananai. È qua. Quasi che ti sei affezionato a quel ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ma che ne sai che lì in realtà nell'originale non ci fosse della roba, che poi Annalisa ha detto vabbè, no, non viene niente, e ci ha messo un ta-ta-ta-ta-ta-ta. Siamo Guardinghi, avvocato, giornalista Gabri Grubi, io a questo punto direi che ho finito. Questo di... perché, se posso, non hai intuito che ta-ta-ta-ta-ta in coreano vuol dire l'anello del conte. Esatto. E è stato messo nel brano per omaggiare Boris. Probabilmente. Comunque io sentendo queste note di Tananai non posso che cedere la parola a Betta. Così, senza... Ciao! Senza indugiare. Prego, Betta, il tuo ta-ta-ta-ta momento. Allora, mommo. Apriamo oggi questa nuova rubrica che si chiama ta-ta-ta-ta-ta. No, non è vero. Sottotitolo. Quest'oggi inauguriamo veramente una nuova rubrica che si chiama Canta responsabilmente. E visto che è nuovina, è dopo lo spiegone, regà, voi beccate, vi tocca, riesco a fare solo rubriche dotte. Quindi, perché si chiama Canta responsabilmente? L'altro anno a MD eravamo 7 cantanti. No, dico 7, non so se vi rendete conto del problema. E in un solo gruppo. In un solo, sì, non in, solo in generale. Sì, sì. È vero, no, perché sembrava che fossero in 4 gruppi, in realtà era in uno. Spiega solo. Eravamo 7 in uno, come le offerte al supermercato. E ognuno aveva il suo pezzo da cantare al saggio. Pezzi che erano in 4 lingue diverse: italiano, inglese, francese e spagnolo. Picche siete sempre nel cuore. A un certo punto della questione mi sono cominciata a chiedere di cosa parlassero, un po' perché è proprio mia abitudine quando studio, un po' perché alcuni non li avevo mai sentiti prima, un po' perché erano in altre lingue. E visto che erano pezzi che avremmo portato avanti tutto l'anno, mi dissi: vabbè, ma perché non perderci un po' più di tempo del solito? Così cominciò questa rubrica sul gruppo WhatsApp delle povere picche, all'inizio solo scritta lì. presi ogni pezzo singolarmente e mi misi anzitutto a tradurlo per bene, che non è una cosa del tutto banale, perché le traduzioni automatiche che tutti facciamo su Google non sono così precise spesso e difficilmente... Cosa? Sì, raga, cioè, provate a fare una traduzione automatica, vedete che esce fuori. E difficilmente trasmettono il senso esatto, nel caso delle canzoni, che per loro lavoro non hanno testi semplici, anzi, spesso sono farci di metafore, allegorie, espressioni idiomatiche, espressioni dialettali, che vanno un po' capite e a volte interpretate. Non ve stupite, perché erano così pure le traduzioni del latino al liceo. La mia prof sarebbe... Quelle fatte da me, sicuro. No, la prof si incazzava da morire con me se le facevo letterale. E fatta la traduzione di questi pezzi, mi mise a cercare un po' di informazioni per capire se l'autore avesse spiegato del tutto, almeno in parte, perché avesse scritto proprio quel testo. Ed ogni volta uscivano cose molto carine: curiosità, significati nascosti, storie sotterranee degli autori, storie di persone e dei loro sentimenti. Perché dietro ogni canzone c'è una storia e ci sono delle persone. E se devi cantarle, perlomeno per me, è fondamentale sapere quello che sto dicendo per poterlo interpretare al meglio. Di qui il nome Canta Responsabilmente, che all'inizio era Che accidenti sto cantando, un po' più informale. Un po' per questo discorso di cantare sapendo cosa stai dicendo, un po' perché uno rischia pure di far figuracce. Ad esempio, la famosa Every Breath You Take dei Police, che dai, la conoscete tutti. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Aspetta, cosa vuol dire? No. Appunto. Un mito. Soffermatici un secondo. La traduzione è questa. Vi aiuto con il tono, così vediamo se ci arrivate. Canzone di uno stalker. Esatto. Ogni respiro che fai, ogni mossa che fai, ogni legame che stringi, io sarò lì a guardarti. Brividi. Sì. Oh, can't you see you belong to me? Sì, esatto. No, sembra uno scherzo, ma è precisamente questo. Poi non parla precisamente di stalking nel senso che intendiamo noi, perché quando Sting la scrisse chiaramente non esisteva il concetto come lo interpretiamo noi, ma comunque stava parlando, a suo dire, di un amante che lui stesso definì ossessivo e disturbato. Ah, ecco. E lui stesso dichiarò di come si fosse stupito da morire del fatto che le persone la mettessero ai matrimoni, essendo per lui un pezzo dal significato oscuro. Comunque, un paio di risposte nella mia mente ce l'ho, però. Dici, è proprio un buon augurio. Era stata fatta pure una cover. Sono io, alcuni amori, diciamo. Era stata fatta pure una cover per la morte di un rapper famoso. Era stata ricantata. Ah, sì? Questa è stata fatta. È stata ricampionata, sì. Da Puff Daddy. Esatto, sì. Quindi, sì, pensa sì, te. Sì, proprio. Certo. Sì, sì. Vabbè, comunque, cioè, in generale è pure un po' colpa del pezzo. Nel senso, Sting, pure te, se fai un pezzo con una melodia del genere tutta allegrotta, no? Non è che è romantica, cioè, esatto, non è difficile pensare che chi l'ascolta poi possa pensare che anche il testo sia sullo stesso registro, azia. Anche se c'è da prendere in considerazione un aspetto di tutto questo discorso, un altro ordine di problema, quello che io chiamo l'effetto Ligabue. C'è una frase, vi siete sentiti male? Un saluto dal vostro Luciano. Grande! Grazie. Sempre con noi. C'è una frase di un suo pezzo che si chiama Uno dei tanti, che dice: io ti alzo lo specchio, ma quello che ci vedi è sempre e solo quello che decidi. Una delle cose più belle delle canzoni è che il significato di un pezzo non è univoco, ma dipende da persona a persona, magari dal momento in cui l'hai sentito, da quello che stavi vivendo in quel periodo. Se l'hai sentita al liceo, quando ti sei innamorato per la prima volta, o 40 anni quando hai divorziato. Se sei effettivamente uno stalker. Se sei effettivamente, esatto, un serial killer. O dall'età che avevi quando l'hai sentito, o dal fatto che ti è capitato di sentirlo in un momento in cui quel testo ti ha preso a schiaffi e il senso che ha per te non è quello che voleva dargli l'autore, né quello che ha per nessun altro. È interessante, sì, studiarsi la storia della musica, la storia dei pezzi in generale, ma alla fine le canzoni non sono compitini a casa, ma arte, e l'arte è un'esperienza intima e personale. Detto ciò, ora facciamo i compitini. Il pezzo che ho scelto per questa puntata, visto che il tema sono i gemelli, anche se non tutti sono d'accordo, è un pezzo scritto da due gemelli monozigoti, i Proclaimers, i due scozzesi Charlie e Craig. Il pezzo si chiama I'm Gonna Be 500 Miles. Una cosa interessante è che il pezzo è dell'88, ma i Proclaimers lo registrarono di nuovo nel 2007 con Peter Kay e Matt Lucas, due attori di una serie di due serie TV molto famose nel Regno Unito, nei panni dei loro rispettivi personaggi. E questa versione fu poi rilasciata come singolo per beneficenza per il Comic Relief, una celeberrima iniziativa britannica in cui i comici famosi si esibiscono raccogliendo fondi per beneficenza. In quell'occasione il testo venne cambiato con Roll 500 Miles invece di Walk 500 Miles, perché i due personaggi erano entrambi in sedia a rotelle. È stato anche girato un videoclip molto carino, andatevelo a vedere, con decine di VIP britannici, tra cui David Beckham, Elton John, Limahl e uno dei miei attori preferiti, il decimo dottore David Tennant. Ma arriviamo al punto. Di cosa parla questo pezzo? Vediamo al volo la traduzione del testo. Maestro, mi mandi il background. Quando mi sveglio, beh, so che sarò, io sarò l'uomo che si sveglia accanto a te. Quando esco, sì, so che sarò l'uomo che ti accompagna. Se mi ubriaco, beh, sarò che sarò l'uomo che si ubriaca accanto a te. E se dirò sciocchezze, sì, so che sarò quell'uomo che dice sciocchezze con te. Ma camminerei per 500 miglia e ne camminerei altri 500 solo per essere l'uomo che ha camminato per 1000 miglia per cadere davanti alla tua porta. Quando lavoro, sì, so che sarò l'uomo che lavora sodo per te. E quando arriveranno i soldi per il lavoro che faccio, ti passerò quasi ogni centesimo, quasi. Quando torno a casa, oh, io so che sarò l'uomo che torna a casa da te. E se invecchierò, so che sarò l'uomo che invecchierà con te. Quando sarò solo, so che sarò l'uomo che è solo senza di te. E quando sognerò, so che sognerò il tempo in cui sarò infine con te. Quando uscirò, so che sarò l'uomo che ti accompagnerà. E quando tornerò a casa, sarò l'uomo che tornerà a casa con te. Fine del background. Quindi, di cosa parla? Della malattia mentale. Praticamente di niente. Avete presente il discorso che facevo sull'effetto Ligabue? Sempre... No, dicevo sempre di stalking, mi sembrava. Però. Esatto. Sì. Oddio, un pochetto, sì, sembra. Un po' simbiotico. Un po'. 500 Miles è una regolarissima, banalissima canzone d'amore, che significa esattamente quello che dice, quello che avete sentito. Ma collo. Esatto. I Proclaimers raccontano di averla scritta in 45 minuti netti perché si annoiavano aspettando di andare a suonare. La cosa buffa è che invece il pubblico, così a caso, cominciò a dare mille interpretazioni diverse al testo. I Proclaimers raccontano sorridendo, ad esempio, del fatto che inserirono nel testo la parola Avering, che è una parola molto dialettale scozzese che significa dire sciocchezze, cose nonsense, e che quando il pezzo fu pubblicato fu tradotto in una maniera di modi balzani, tra cui vomitare, proprio a caso, perché le persone... Quando vomiti, sarò l'uomo che vomita con te. Sì, è come se io ci metto un qualsiasi termine dialettale romano che non capisce nessuno fuori dal raccordo e poi viene tradotto con cose a caso. Ma infatti, se posso, io farei poi anche uno spin-off dello spin-off dello spin-off in cui spieghiamo la traduzione di tutti quegli O in lingua anglofona che diventano O in romano, però quando li rileggiamo i testi. Questo è molto interessante. Esatto, O, oppure O. Lo diremo nella prossima puntata. Vai. E alcuni diedero persino un significato religioso alla canzone, perché 500 miglia è la lunghezza del cammino di Santiago. Vabbè. E il viaggio quindi venne interpretato come un viaggio dell'anima verso Dio, proprio roba da pazzi. 45 minuti hanno fatto. Cioè, 45 minuti ci hanno messo a scrivere sta cazzata e hanno, non lo so, 45 anni a cercare traduzioni strane. Però un po' li capisco, perché da ragazzina io su Even Flow, per esempio, dei Pearl Jam, quando all'inizio dice freezing rest his head on a pillow made of concrete, quindi congelando poggia la testa su un cuscino di cemento, io mi ero fatta delle turbo pippe sul fatto che parlasse di qualcuno turbato che non riusciva a dormire e quindi quando toccava il cuscino con la testa gli sembrava di cemento. Bella sta immagine, eh? No, io mi ero meno pippata da morire. E invece il povero Eddie Vedder parlava veramente del cuscino di cemento, perché si riferiva a un senza detto che aveva incontrato vicino allo studio di registrazione e gli aveva comprato un panino. Quindi ogni pezzo ha una sua storia. Comunque, per concludere la storia di questo, una piccola incursione del nord del nerd, perché redazione, voi lo conoscete questo pezzo? E raccontate perché se no ve boccio. Bocciami. Dai, no! Ma questa canzone è la più bella del mondo. È l'unica che mi piace. Scherzavo! La cassetta è bloccata dentro da almeno 2 anni. Meglio di niente, però. Ho darsi. Cazzo, così. Ve la siete ricordata? Questi sono Ted e Marshall. Questa canzone mi sta veramente devastando. Vedrai, adesso arriva. Cosa vuoi dire? Stavolta l'abbiamo fatta da Dio. Abbiamo superato noi stessi. Vuoi giocare a C'è un cane? Cioè? Dai, ve lo ricordavate che c'era la puntata di How I Met Your Mother, in cui Ted e Marshall andavano sulla macchina di Marshall, però lui praticamente gli si era incastrata la cassetta dentro la macchina e quindi continuava a passare sto pezzo a rotta di collo. Mamma mia, è bellissimo. Sì. Poi è ripresa da un sacco di altre puntate. Vabbè, bellissimo quella scena. E anche i loro qui... viaggi per mangiarsi il panino. Basta, esatto, scusate. Panino, tra virgolette. E anche qui c'era tatta. Abbiamo fatto il gancio involontario con Mogol. E con questo finisce la prima puntata di questa nuova rubrica Canta responsabilmente. Molto bene. Purtroppo senza sigla. Vabbè, arriverà nel tempo. E ragazzi, vi lascio proprio con i Proclaimers, 500 Miles. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. Let's go. in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers. Salutiamo permette, il piccolo Filippo. Per mettere a suo agio la giornalista Gabri Grubi, le abbiamo fatto una sorpresa. Abbiamo in collegamento, mamma, in videochiamata, mamma, il piccolo Filippo. Non è vero, ma non chissà, è vero. Chissà come se la passa il piccolo Filippo. Salutiamo lui e i nonni che sono a casa e ci ascoltano. Salute. E ci permettono di essere di nuovo in diretta qui perché sì, mamma Gabri non vuole portare Pippo in questa meravigliosa regia che abbiamo ripulito, riscaldato. Sì, sì, a me preoccupano nostro... le scale. Solo quelle, ma vabbè, meno comunque. 20 gradi anche. Meno 20 gradi, un po' di scale, un po' ripide. Ce la farà, ma... comunque, un ragazzo... Sì. Come ti chiami? Pappo. Un ragazzo consapevole del suo nome, Pappo. Pappo. E quindi salutando Filippo, Pappo, passo la parola alla giornalista Gabri Grubri. Io faccio l'applauso. Scusa, scusa. Buonasera, ben ritrovate amiche e amici. Amiche e amici di Brocardi, perché bene sì, ritorna la rubrica che pure non si sentiva da un po'. Confesso che mi mancava anche molto la sigla di questa rubrica, che fra un secondo chiederò al maestro di lanciare. Giusto il tempo di ricordare che si occupa di, come dice la parola stessa, Brocardi, quindi questi aforismi, ecco, che concentrano principi per lo più giuridici, quindi è molto dedicata ai latinisti, ma non solo, perché nel tempo abbiamo ripercorso proverbi, motti, appunto modi di dire, e che in poche parole concentrano grandi significati. Con questo passiamo quindi subito alla sigla di Brocardi, vai! Brocardi. Questa mattina mi sono svegliata e ho trovato la sorpresa. Mio padre ha portato a casa Brocardi. Ti sei mai domandato cosa siano? Oh, io le cose le so. Oh, e cosa sono? Fanno parte della famiglia dei carciofi. Allora, ho deciso di preparare cardi in pastella. Ma prima di tutto dobbiamo andare a pulire i nostri Brocardi. Fantastica. Io non me la ricordavo. Ammetto, sì, io pure non la ricordavo benissimo. Perché quando puliamo i nostri cardi, in fondo cosa resta se non il senso della vita? Ecco, e parliamo di forme di erudizione, no, in questa nostra rubrica. E anche oggi non mi discosto molto dal tema. E perché mi sono imbattuta in un simpatico libello di cui appunto vi parlo oggi, e state attenti perché ci riguarda veramente molto molto da vicino, è di Carlo Emilio Gadda, poeta, scrittore e anche insegnante, lui era ingegnere, che ha collaborato con la RAI negli anni 50 e molto, insomma, riconosciuto nella letteratura italiana soprattutto per la finezza, ecco, dei suoi versi e per la sua ironia. E, è stato autore, fra gli altri, di questo libello, appunto, che ho ritrovato per caso, che si chiama Norme per la redazione di un testo radiofonico. Attenzione, quindi scritto negli anni 50, ma l'ho trovato di assoluta attualità. E mi piace quindi anche un po' ripercorrere insieme a lui delle regole di base per la scrittura, appunto redazione di un testo radiofonico, e anche un po' bacchettarvi, chiaramente, perché nel leggerlo... Grazie! Allora, voi siete tutti bravissimi, competenti, abbiamo avuto con noi anche i compagni... Risata! Soprattutto tu, Alexa, sei soprattutto tu, Alexa, impeccabile. No. E Iron Man, chiaramente. E i nostri amici di Radio Blackout, che ci hanno insomma fatto sentire per qualche minuto e come si imposta un vero speaker radiofonico. Ma noi non siamo da meno, ecco, ovviamente, non voglio screditarci. Quindi rivolgo a me stessa questi suggerimenti, a me per prima, partendo proprio da un consiglio di base, e comincia così, esordisce così Carlo Emilio Gadda in questo suo libello, a proposito della durata, ecco, e lui dice che la sopportabilità massima del parlato in Italia è di 15 minuti. La voce unica e fusa erogata dal graticcio del radioapparecchio, in quanto non soccorsa dalla prestanza fisica, dalla gestizione o dall'atteggiamento di chi parla, annoia l'ascoltatore italiano dopo 15 minuti. Ecco, chi di voi si sente, si riconosce in questo, innanzitutto in questo primissimo principio? Ma che sta diventando sta puntata? Ma perché? Insomma, il riassunto è non andate lunghi. Non andate lunghi. Ma io l'ho detto che le rivolgo prima di tutto a me stessa questi suggerimenti. Però ecco, è interessante vedere come l'autore in questo caso li tratta con molta ironia o ci dà, in questo caso al lettore perché è un libretto però ci parla per esempio appunto della durata e anche di un po' di espedienti per evitare che l'ascoltatore venga tediato, come sto facendo io in questo momento per esempio. Non fare così. Grazie Iron Man. Un espediente è proprio questo, quello di alternare, fare una sorta di dialogo, quindi una conversazione a più voci, due o tre voci, e quindi creare una forma di dialogo, ma un'altra soluzione. E così dice Gadda che si può arrivare ad ottenere un ascolto fino a ben 30-40 minuti. È una cosa che noi facciamo. Fatto. Quindi se ci mettiamo Polle e Miki possiamo andare lunghi. Brava, ecco, Polle e Miki è proprio quello che succede in questo terzo consiglio che ci dà Gadda, perché lui dice che un'altra soluzione del problema durata è un accorgimento che permette di protrarre il conversato radio fino a 30-40 minuti senza tedio di chi ascolta, è il metodo della citazione e con l'alternanza delle voci. Nel senso che chi interpreta un certo personaggio, quindi se per esempio vogliamo citare Ugo Foscolo, allora faremo proprio la voce di Ugo Foscolo. Oppure vogliamo parlare, far ascoltare i proclami del Bonaparte, allora troveremo chi fa la voce di Bonaparte. E così una voce femminile, ad esempio, per la consorte, quindi per Giuseppina Strepponi in Verdi. Sì. Sì, e con Polle e Miki era proprio lei. Alexa, ecco, infatti è una ottima candidata. Sì, abbiamo spettacolo. Attenzione. In fondo sto lanciando suggerimenti, ma noi la gran parte li abbiamo già colti, quindi non disperati, in realtà. Bene. Stiamo avanti. E altre cose che ci dice il carattere di un maestro del pensiero, che bisogna andare dritti al punto. Questo è anche un altro andare. Questa è bella, questa no. La conserviamo. Esatto. Ricordiamo 18:48. Sì, infatti andiamo dritti al punto, come una catapulta. Ah, anche il tono, sì, si sofferma pure sul tono, che non deve essere assolutamente accademico o dottrinale, ma anche molto così gioiale e allegrotto. Perché adesso qua tratteggia il pubblico che ascolta una conversazione è un pubblico per modo di dire. In realtà si tratta di persone singole, di monadi, ovvero unità, separate le une dalle altre. Ogni ascoltatore è solo nella più soave delle ipotesi e in compagnia di pochi intimi, seduto solo nella propria poltrona. Dopo aver inscritto in bilancio la profittevole mezz'ora e la nobile fatica dell'ascolto, egli dispone di tutta la sua segreta suscettibilità per potersi irritare del tono inopportuno, onde l'apparecchio radio lo catechizza. E questo è proprio per citare appunto Gadda. E in sostanza dice che l'ascoltatore deve essere trattato come un amico, il radiocollaboratore non deve presentarsi come un maestro, ma come un amico. Noi su quello siamo a cavallo, perché gli amici sono proprio quelli che... Esatto. amici. E non deve, ecco, questo è pure un altro passo che mi ha ho trovato simpatico. Dice Gadda che all'atto di redigere il testo si dovrà evitare in ogni modo che nel radioascoltatore si manifesti il cosiddetto complesso di inferiorità culturale, cioè quello stato d'ansia, di irritazione, di dispetto che coglie chiunque si senta condannare come ignorante dalla consapevolezza, finezza e sapienza altrui. Noi incorriamo in questo pericolo. Chiudo le rubriche, non le farò mai più. La dotta Betta potrebbe Betta fuori proprio. Però potresti iniziare a farti le voci da sola. Io dovrò farle come Aranzulla, tipo. Dio. Hai paura dei gruppi? Non preoccuparti, mettiti seduto. Mettiti comodo. Per fortuna noi siamo molto molto autoironici. Oh, volevo fare un disclaimer veloce: nessun commento dopo questa rubrica sarà accettato su Telegram. Ah, ovviamente sì, ma anche perché non ce ne sarà il tempo. Andiamo rapidamente nel dire altro paio di cautele. Lui ci suggerisce di evitare astenersi dall'uso della prima persona singolare io, tipo io proclamo questa cosa, io penso che la Divina Commedia sia l'opera più bella di Dante, cose del genere. Vado via anch'io. Astenersi dalle locuzioni straniere quando si può usare l'italiano. E quindi chaise longue diventa sede a sdraio, punto. Vabbè. Facciamo che evitiamo forse sta parte. Forse è il periodo che contaminava esatto. Un po' gli scritti. Periodo storico. Sì, comunque dobbiamo considerare che scrive negli anni 50. In ultimo, arrivo per chiudere questa e sarà dura da leggere, appunto, ancora più da per chi ascolta. Oddio. Sarà dura ascoltare. Ci dice che è il caso di suggerisce di evitare le litoti a catena, le negazioni delle negazioni. Poi io pensavo si dicesse litoti, invece c'è un accento su litoti. Sì, beh, litoti. Le negazioni delle negazioni. Per cui, sentite questa. Sì, volevo enfatizzare. Sì, sì, sì. Non va chi non creda che non riuscirebbe proposta inaccettabile a ogni persona che non fosse priva di discernimento il non ammettere che si debba ricusare di respingere una sistemazione che non torna certo a disdoro della magnifica comunità di Ampezzo. Ecco, l'ultimo dei problemi è la litoti. Una frase del genere in radio no. Non capisco. Detto in radiofonico. Era un esempio di sì, no, questo, cosa no. Esatto, di evitare le negazioni delle negazioni. Meno male. Questa frase in radiofonico era tipo va ministro tradotta. Giuli. Sì, esatto. Va tradotta così: tutte le persone di buon senso vorranno ammettere che la sistemazione onorevole proposta dalla magnifica comunità di Ampezzo è senz'altro accettabile. Ah, tutto là. Perfetto. Esatto. Esatto. Un applauso meritatissimo. Va anche evitata l'alitosi in radio. Va anche evitata l'alitosi. Questo direi data, che è il data la vicinanza. Questa è una massima di vita. E con questo, ragazzi, chiudo questa puntata di Brocardi e vi faccio ascoltare un pezzo che mandiamo per omaggiare il nostro caro Filippetto che è a casa e che ci ascolta e che ci fa sempre ascoltare e cantare, ovviamente. Ciao, ciao. Filippetto. Vogliani? Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Quando Martin vedete città, forse voi penserete dove girando va, solo senza una meta, solo ma c'è un perché. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Ma un giorno per dispetto Pinco Pallo l'incendiò e a più un poveretto senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti chiederete, ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Però quel tale Pinco Pallo tutte quante le incendiò. Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. We'll be right back. Radio Forte 100 Celle Avengers, sempre in diretta, non so più a che ora, diciamo che siamo a 10 minuti dalla fine, va. Indefiniti. Ma se siamo sbaccati, raga, sappiatelo. Sul viale del tramonto, comunque, di questa puntata. E in un momento nuovamente imbarazzante, almeno per me, esatto, che comunque vivo un po' questo squarcio dentro di me, anche da quando qualcuno, ma non voglio dire chi, ha tentato di introdurre degli idoli, dei totem. Stiamo esagerando alberi, un po'. Alberi da chittare, da ho messo un albero di Natale in sala prove, per farlo chittare da tutte le persone, violando, con una pallina. Violando 38 anni di anticlericalismo. Ma che c'entra l'albero di Natale con il clericalismo? Il grincismo, il grincismo. Assolutamente. Si festeggia il sol invictus. Era soltanto un modo per dire che appunto io sono dilaniato poi nel cioè è un secret quello che andiamo tranquillo a introdurre. Sapremo solo noi comunque. E quindi comunque io, siccome abbiamo appena sentito già un diciamo motivetto di quelli che diceva Virginia nel fuori onda, ci siamo ormai inglobati nella nostra vita, io e Gabri, la casetta in Canada. Prendo spunto per raccontare anche un po' il nostro Natale dal mio punto di vista, da un altro giocattolo di Filippo, detto Pippo, che presenta un'anomalia, cioè un'anomalia, una roba che ci fa parlare di armonia improvvisamente, così di relativa minore, come sì, se non, cioè, quasi dovrei mettere la sigla, però cosa sta succedendo? Cioè, no, vabbè, senso, questa c'è sempre molto bene. Doveva esserci un altro poi rubricone riguardante la musica, ma quest'oggi vi lascio soltanto con questa chicca, e cioè il mio Natale minore. Cioè poi dopo... poi riguadagna a parte fare male alle orecchie, perché comunque è un audiolibro per bambini registrato da vicino. Quindi vabbè, vi dovevo avvertire, però insomma presenta questo minore sull'incipit che è bello da far sentire a un bambino, soprattutto non lo so, è uno di quei bug che ti ritrovi, cioè un giorno li metterò tutti in collage, i vari motivi che troviamo nei giocattoli, ma questo era natalizio perché... E quindi perché? Anche la mia amo e odio il Natale, ecco. Quindi anche la mia voce, perché vorrei ricordare che... Cosa che non tutti sanno, che praticamente a un certo punto loro hanno scoperto che uno dei giocattoli di Pippo ha la mia voce. Ma è identico. Ma identica, spiccicata. Cioè noi a casa abbiamo Betta. Tutti i giorni sentiamo la voce di Betta che saluta Filippo. Apre il libro musicale ed esce Betta che fa ciao. Voi non sapete cosa ho fatto nei miei trascorsi. Eri un libro musicale. Le vite segrete. Anche. Ma restiamo quindi in tema Secret di Natale, Betta. Cosa dite? Restiamo in tema di Natale, perché per peggiorare il disagio del maestro Suano, oltre all'albero in sala prove, abbiamo introdotto una cosa che ormai è diventata una tradizione nella scuola di musica, cioè del terzo, è il secondo anno ma è già tradizione, ovvero il Secret Santa. Capito? No. A proposito di non usare neologismi esteri, esatto. Cosa direbbe Carlo Emilio? Carlo Emilio Gadd, il Secret Santa. Ce l'avrebbe molto con me. Il babbo sarebbe segreto. Il babbo segreto. Una pratica più discreta dell'albero. Tanto c'era manco una pallina, ho messo solo io. Sì, è stata derubricata nel 92. E praticamente, siccome facciamo una cena alla fine prima del Natale con tutti i ragazzi di MD, abbiamo introdotto questa cosa di fare il Secret Santa fra noi. E in questo momento, adesso, il Secret Santa del laboratorio di musica parte. È ufficialmente aperto. Wow. Abbiamo aperto il televoto, non avevo capito che... Abbiamo aperto il televoto proprio adesso, ma infatti se volete adesso potete andare sulla vostra mail e grattare la palla. Non fare così. Vogliamo grattare la palla? Dai, vi prego, grattiamo. Si può dire in radio? Ormai l'hai detto, sa che Carlo Emilio... Vabbè, sei una sola, si lo ripete. Come Paganini. Vabbè, ci ha detto male. Quindi dovreste avere tutti voi del gruppo TMB... che ci state ascoltando. Aver ricevuto una mail che vi invita a cliccare su un link... Confermo. E dare tutti i vostri soldi a me, arriveranno sul mio IBAN. Quindi in realtà è una truffa. Esatto, certo che è una truffa. Però detta con la vocina del libro per bimbi. Esatto, impariamo i numeri e le truffe fiscali. Ovviamente se grattate la palla, dire il nome che avete trovato rovina tutto. No, non lo diciamo, dai. Ecco, cioè, la cosa importante è non dire chi è il vostro Babbo Natale segreto. Che è il nostro palla. Sì, non va detto. No. Vabbè, allora, per favore spiegatemi le regole di questa secret. Tanto non hai voluto partecipare apposta. Secret, giusto, il secret. Comunque il problema era appunto questo anche dopo, per quanto mi riguarda, nel senso che c'ero cascato anche affascinato dal fatto che magari rimanesse proprio secret, invece poi comunque si trasforma in un giro di regali dal tuo Babbo Natale segreto, che poi non rimane più segreto, cioè insomma c'era molto, come dire, vabbè, niente, era una cosa capito. Mia. Cioè, veniva rivelato quasi subito il Babbo Natale segreto. Ah, ecco, quindi prima di ricevere il regalo mentre già la magia sai. Del Secret Santa è che... Tu non lo sai almeno, che non, cioè, almeno lasciare un quarto d'ora alla gente per indovinarlo, invece che fai, già tutto... Esatto, quindi cioè, diciamo che dicendolo per radio, quello che volevo dire è che peggioreremmo questo già fattore spoiler che rende meno magico il Secret Santa. Vabbè dai, però è divertente andare a cercare chi è che ti ha fatto il regalo. I simbolini andarlo a cercare, sì. I simbolini non sono unici, visto che qualcuno si vabbè, ripete. Abbiamo perso Virginia e Franci che stanno già attaccati all'app. Ma perché quest'anno non mi fa? Allora, l'app, se non l'avete mai vista, comporta di un tot di spam, un tot di scorri in basso e poi... Cioè, quindi, non lo so, forse... Carlo Emilio non so se troverebbe radiofonica questa cosa di fare cioè di grattare la palla io posso fare questo rumore qua capire che state ognuno di voi grattando, io sto grattando il nome io del non vostro capisco dove lo devo fare del però, vostro vabbè. Destinatario cioè la persona di cui siete Babbo Natale segreti. Ah, io ho grattato, ma facciamo le reaction dal vivo però senza dire chi è. Vabbè, fate un giro di reazioni. Io sono molto contenta del mio pupillo. Attenzione, Gabby sta spiando il babbo. Io sto spiando il babbo di Franci. No, non lo fai. Ma non lo dirà nessuno. Allora, io me ne sono tirata fuori perché so che posso essere soggetta a imprevisti. Perché se Filippetto poi non mi dovesse consentire di partecipare alla cena, il regalo non arriva. Ecco. No, continuiamo pure a dare prego, a dare la colpa. No, per questo a Pappo. Volevo spiare il Santa di Franci. Mamma. Vabbè, ma non me lo fa più spiare. Ok. Bravo, la mamma sta arrivando. L'hai vista la persona, no? No. Franci, te sei uno spoilerone. Francesco, per favore. Di quelli forti, Mister spoiler. Cioè, m'hai spoilerato cose che non voglio ripetere qui in radio, quindi attento perché state vicini. Vi separo? Questi ultimi... Annaccia, niente. Guarda Gabri! No, vabbè. Che bello! No, vabbè. La peggio, cioè. Vabbè, la diciamo che cioè. È stato permesso all'evento, cioè la partecipazione anche a chi non aderiva a questa iniziativa benefica, per Betta. Ma la cosa è reciproca, nel senso che... No. No. Okay. In che senso reciproca? Che è la coppia. Te ti arriva il nome di quello a cui devi fare il regalo. Che non il è quello tuo che nome arriverà a qualcuno. No. Ho capito. Vabbè, grazie. È tutto. Mo te sei spoilerata che quella non è la persona a cui farei regalo. Ma io non partecipo, per questo mi sono potuta permettere. Solo zizzania. No, se no non l'avrei mai fatto. No, allora vabbè, dopo te racconto. Virgi, proprio te sei cattiva maestra su questo. Devo dire due cose. Beh, a questo punto potremmo far spiegare. Mi state rovinando il Natale. No. Potremmo far spiegare a Hilbert perché non sono solo coppie, perché in quel caso... se fossero tre persone, funziona due persone... pure coi dispari, esatto. Ah, esatto, funziona pure coi dispari. No, ragazzi, cioè, in ufficio da me sono diventati pazzi per questa cosa. E sono partite delle turbo discussioni matematiche su quante sono le possibili combinazioni. Infatti, mi immagino che voi non vi chiudete per niente su queste cose. Quindi, prima, vale pure se erano dispari, questo ho capito bene. Sì, esatto. Sulla sigla, lo stiamo dicendo, sì, questo sì. fatto, ma veramente? Certo. Lo scoprirete nella prossima puntata. Prossima. Ciao! Ciao! Ciao!